Ancora 48 ore fa qui si ballava sorridenti sulle note di Manu Chao, ancora 24 ore fa qui in Piazzale Kennedy, la grande spianata in riva al mare, che è stato uno dei cuori pulsanti del Genova Social Forum, si discuteva, si mangiava, si rideva. Questa mattina, sotto un cielo limpido e un bel sole caldo, Piazzale Kennedy sembra un campo profughi. Tra un gruppo di sacchiapelli e l'altro è una stesa di immondizia, di rabbia e di disperazione. La moltitudine sembra frantumata, gruppi e gruppetti restano divisi, chiusi su loro stessi, quasi annientati dalla tremenda giornata di ieri. Fuori la polizia, molto più presente e spavalda dei giorni scorsi, almeno 30 furgoni dei PS all'entrata di Ponente, supportati da addirittura due bulldozer cingolati dei carabinieri, e le volanti a fare i caroselli sul grande viale davanti al piazzale. Da assedianti che erano, le migliaia di manifestanti che si aggirano qui con le facce tristi e tirate masticando parole amarissime, sembrano diventati assediati. Per ritrovare senso unità resta, si spera, la manifestazione mantenuta per oggi pomeriggio alle 14 dal quartiere Sturla verso il centro lungo il mare. Si spera nella linfa nuova e fresca di chi ieri non c'era e non le ha prese. Si spera che tanti compagni arrivino dal resto del paese a dare respiro, a liberare dal peso, sapendo però che non mancheranno le provocazioni e che dopo ieri tutto è molto molto più difficile. Il sole già a palla nel cielo limpido sta svegliando i ragazzi ancora avvolti nei sacchi a pelo sugli spalti dello stadio Carlini. C'è silenzio, niente cavalcata delle valchirie che a quest'ora aveva svegliato ieri i disobbedienti, solo il rumore del generatore elettrico. A gruppi molti sono nelle strade vicine per la colazione e i giornali. Ci sono delle scritte nuove sui muri. Aveva meno di 20 anni. Carlo Giuliani, classe 78, un ragazzo di Roma che viveva Genova, e se è morto è colpa sua, almeno così la pensa il governo. In una nota, il ministro dell'interno Claudio Scajola afferma che l'episodio è avvenuto durante un violento assalto che ha provocato il ferimento di alcuni carabinieri a bordo di un automezzo e che uno di questi ha aperto il fuoco a scopo difensivo. Una nota arrivata dopo ore di silenzio, quando ormai le testimonianze fotografiche raccontavano la verità. Il carabiniere che ha sparato, che ha ucciso, è stato identificato, interrogato in serata dai suoi colleghi, oggi dal magistrato. Ricchi e poveri, buoni e cattivi, il vertice degli eccessi continua oggi. Tra un'ora il G8 inizia a discutere di povertà, ambiente e conflitti nel mondo. Il G8 procede con le sue rappresentazioni estreme. Il fatto di aver messo attorno al proprio tavolo ieri sera 5 presidenti dei paesi poveri, Algeria, il Mali, il Sudafrica, il Salvador e il Bangladesh, è fonte di autogratificazione. I grandi concedono, gli altri sappiano accontentarsi. Roberto, tu ti trovi nel luogo dei contenuti, dove in questi giorni ci sono stati i dibattiti alternativi al vertice del G8. C'è gente che sta seguendo i dibattiti, c'è gente lì, segue i dibattiti o che cosa fa? Allora, guarda, gente ce n'è moltissima. Adesso qui si sta tenendo, in una situazione, come dicevo prima, emotivamente molto, molto forte. Ho visto che il moderatore, che era Fraia, a un certo punto ha preso, se n'è andato dicendo: apparirò insensibile rispetto agli altri, ma a questo punto io me ne vado. Cioè, continuavano anche i relatori a intervenire sulla questione del ragazzo ucciso, chiedendo un minuto di silenzio, eccetera. Lui invece penso che abbia riportato il tema del dibattito, della discussione, è stato fischiato, ha preso, se n'è andato e adesso il moderatore è diventato Petrella. Ecco, questo dà un po' il senso anche di quello che è successo durante tutta la settimana, cioè il fatto di parlare dei temi per cui molti sono venuti qua. Su tutto questo c'è stata sempre l'ombra della manifestazione, dei cortei, di quello che probabilmente sarebbe successo. Il concentramento per la manifestazione a Genova è alle 13 in piazza Sturla. Noi torniamo a collegarci con Francesco Giorgini, che si trova, credo, proprio verso piazza Sturla, insomma nella parte che va da piazzale Kennedy fino a piazza Sturla, giusto Francesco? Sì, io sono sul lungomare, che è percorso ormai da quasi un corteo, si potrebbe dire, di gente che sta andando verso il punto di concentramento. Io qui ho fermato qualcuno e chiediamo, insomma, un po' di motivazioni. Di cosa hai paura oggi, cosa speri? Ma adesso non ho paura di niente, mi bevo una birra e guardo la gente, poi quando mi troverò nelle zone calde speriamo che non succeda quello che è successo ieri. La cosa rattrista, perché si sente un po' meno liberi, un po' più in soggezione nell'esprimere proprio il libero manifestare, come sempre dovrebbe essere per un paese libero, democratico. È veramente triste, triste, tristezza. Comunque ci siamo, non siamo, siamo tranquilli. anche perché voglio anche le cose vanno tranquillamente, e sono certo che oggi andranno tranquillamente, perché a lunga vinceremo. Sì, clima abbastanza tranquillo stamattina, il sole splende, ieri corteri volano, speriamo vada tutto bene. Je pense qu'aujourd'hui il faut être encore là, mais non violent et faut pas provoquer plus de violence qu'il y a eu hier, quoi. Ci vuole il rifiuto delle provocazioni, bisogna non provocare la violenza, bisogna essere pacifici. Cioè, qui sembra tutto tranquillo, anche se c'è uno schieramento di polizia ovunque, cioè, è incredibile. C'è una notizia che è appena uscita e che racconta della ripresa dell'attività dei cosiddetti Black Bloc. Violenze che vedono come protagonisti gli anarchici, scrive l'agenzia, anche se questa parola forse non andrebbe così serenamente usata. Sono in corso nelle zone di Marassi e Quarto a Genova. Sul posto, raccontano le agenzie, ci sono un paio di centinaia tra poliziotti e carabinieri. Secondo quanto si è appreso, gli anarchici e due. Comunque, insomma, questi gruppi avrebbero già danneggiato alcuni negozi, sono stati visti riempire delle bottiglie con benzina. L'orario è praticamente lo stesso di ieri. Alle 12 circa sono iniziati i primi incidenti. Speriamo che questa sia una ultimissima fiammata di questo attivismo di questi gruppi.